Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Avevamo bevuto ciascuno da una bottiglia e presi la mia bottiglia con me e salii e mi distesi sul fieno e guardai dalla finestra stretta la campagna bagnata. Non so che cosa mi aspettassi di vedere, ma non vidi niente tranne i campi e i cespugli nudi di more e la pioggia che cadeva. Bevi il vino e non mi fece stare meglio. Lo avevano conservato troppo ed era andato in pezzi e aveva perduto qualità e colore. Guardai scendere l'oscurità fuori. Il buio giunse molto in fretta. Sarebbe stata una notte nera con la pioggia. Quando fu buio non servì più a niente guardare. Così ritornai da Piani. Stava dormendo e non lo svegliai, ma rimasi un po' seduto accanto a lui. Era grosso e aveva il sonno pesante. Dopo un po' lo svegliai e ci mettemmo in moto. Fu una notte molto strana. Non so che cosa mi ero aspettato. Forse la morte, spari nel buio e corse, ma nulla accadde. Aspettammo distesi bocconi oltre il fosso lungo lo stradone che passasse un battaglione tedesco. Poi, quando furono andati, attraversammo la strada e proseguimmo verso nord. Fummo due volte vicinissimi ai tedeschi nella pioggia, ma non ci videro. Oltrepassammo la città verso nord senza vedere gli italiani. Poi, dopo un po', raggiungemmo le colonne principali della ritirata e marciammo tutta la notte verso il tagliamento. Non mi ero reso conto di come la ritirata fosse gigantesca. L'intera regione si stava spostando insieme all'esercito. Marciamo tutta la notte tenendo una velocità maggiore di quella dei veicoli. Mi faceva male la gamba ed ero stanco, ma stavamo allegri. Pareva così stupido che Bonello avesse deciso di darsi prigioniero. Non c'era nessun pericolo. Avevamo camminato senza incidenti fra i due eserciti. Se Aimo non fosse stato ucciso, non ci sarebbe sembrato che ci fosse alcun pericolo. Nessuno ci aveva seccato quando eravamo in piena vista lungo la strada ferrata. L'uccisione giunse improvvisa e inspiegabile. Mi chiesi dove fosse Bonello. «Come si sente, tenente?» disse Piani. Stavamo camminando sul ciglio di una strada affollata di veicoli e truppe. «Bene, io sono stanco di questa marcia. Beh, ora non possiamo far altro che marciare. Non dobbiamo preoccuparci. Bonello è stato uno scemo. È stato uno scemo sul serio. Che cosa gli farà, tenente?» «Non lo so. Non potrebbe dichiararlo catturato dal nemico?» «Non lo so. Capisce, se la guerra continua possono dare dei fastidi seri alla famiglia.» «La guerra non continua», disse un soldato. «Stiamo andando a casa. La guerra è finita. Stiamo tutti andando a casa.» «Venga, tenente», disse Piani. Voleva allontanarsi da loro. «Tenente, chi è un tenente? Abbasso gli ufficiali.» Piani mi prese per il braccio. «È meglio che la chiami per nome», disse. «Potrebbero darle dei guai. Hanno sparato qualche ufficiale. Accelerammo il passo per oltrepassarli.» «Non farò un rapporto che metta nei guai la sua famiglia», dissi, continuando la conversazione. «Se la guerra è finita non importa», disse Piani. «Ma non credo che sia finita, sarebbe troppo bello se fosse finita.» «Lo sapremo presto», dissi. «Non credo che sia finita, credono tutti che sia finita, ma non ci credo.» «Viva la pace», gridò un soldato. «Andiamo a casa.» «Sarebbe bello se andassimo tutti a casa», disse Piani. «Le piacerebbe andare a casa?» «Sì, non ci andremo mai. Non credo che sia finita.» «Andiamo a casa», gridò un soldato. «Hanno buttato via i fucili», disse Piani. «Se li tolgono e li lasciano cadere mentre marciano, poi gridano. Dovrebbero tenerli i fucili. Credono che se buttano via i fucili non possano più farli combattere.» Nel buio e nella pioggia, procedendo sul ciglio della strada, vedevo che molti avevano ancora il fucile. Sporgevano sulle mantelline. «Di che brigata siete?» gridò un ufficiale. «Brigata di pace», gridò qualcuno. «Brigata della pace». L'ufficiale non disse niente. «Che cosa dice? Che cosa dice l'ufficiale?» «Abbasso l'ufficiale, viva la pace!» «Venga», disse Piani. Oltrepassammo due ambulanze inglesi, abbandonate nell'interruzione di veicoli. «Sono di Gorizia», disse Piani. «Conosco le macchine. Sono andati più lontano di noi. Sono partiti prima. Chissà dove sono gli chauffeurs. Avanti, probabilmente. I tedeschi si sono fermati fuori di Udine», dissi. «Tutta questa gente attraverserà il fiume». «Sì», disse Piani. «Per questo credo che la guerra continuerà». «I tedeschi potrebbero venire», dissi. «Chissà perché non vengono». «Non lo so, non so niente di questa specie di guerra. Immagino che debbano aspettare il carriaggio». «Non lo so», disse Piani. «Quando era solo era molto più garbato. Quando era con gli altri parlava male». «Sei sposato, Luigi?» chiesi. «Lo sa che sono sposato. È per questo che non hai voluto darti prigioniero?» «Questa è una ragione». «Lei è sposato, tenente?» «No, neanche Bonello». «Non si può mai dire sulla gente sposata, ma a me pare che uno sposato dovrebbe voler tornare da sua moglie». Avevo voglia di parlare di mogli. «Sì. Come vanno i piedi?» «Mi fanno piuttosto male». Prima di giorno giungemmo sulla riva del Tagliamento e seguimmo il fiume in piena fino al ponte dove tutto il traffico stava passando. «Dovrebbero poter resistere questo fiume», disse Piani. Nel buio la piena pareva alta. L'acqua turbinava ed era vasta. Il ponte di legno era lungo quasi un chilometro e il fiume, che di solito correva in canaletti nel vasto letto petroso, arrivava quasi alle assi di legno. Proseguimmo lungo la riva e ci facemmo strada nella folla che stava attraversando il ponte, attraversando lentamente nella pioggia col fiume a pochi centimetri dai piedi, schiacciati dalla folla e un cassone d'artiglieria davanti. Mi sporsi dal parapetto a guardare il fiume. Ora che non si poteva camminare sul proprio passo mi sentivo stanchissimo. Non c'erano esuberanze nell'attraversare il fiume. Mi chiesi che cosa sarebbe successo se un aeroplano l'avesse bombardato di giorno. «Piani», dissi. «Eccomi, tenente». Era un po' più avanti nella calca. Nessuno parlava. Cercavano tutti di attraversare più presto che potevano, pensavano solo a questo. Eravamo quasi passati. All'estremità del ponte c'erano ufficiali e carabinieri in piedi accanto ai due parapetti con le lampade tascabili. Li vidi profilati contro la linea del cielo. Quando ci avvicinammo, vidi un ufficiale indicare un uomo nella colonna. Un carabiniere lo seguì e venne fuori tenendo l'uomo per il braccio. Giungemmo quasi di fronte a loro. Gli ufficiali esaminavano a uno gli uomini della colonna, a volte parlando fra loro, sporgendosi per accendere una lampadina in faccia a qualcuno. Un momento prima che arrivassimo, davanti a loro ne tirarono fuori un altro. Lo vidi. Era un tenente colonnello. Vidi le stellette nel quadratino sulla manica mentre gli accendevano addosso una lampadina. Aveva i capelli grigi ed era piccolo e grasso. Il carabiniere lo spinse dietro la fila degli ufficiali. Quando giungemmo di fronte a loro ne vidi uno o due guardarmi. Poi uno mi indicò e parlò a un carabiniere. Vidi il carabiniere avviarsi verso di me e avvicinarsi attraverso l'orlo della colonna. Poi mi sentii prendere per il colletto. «Cosa vuoi?» dissi. E gli diedi un pugno in faccia. Gli vidi la faccia sotto la lucerna, i baffi arricciati e il sangue che gli colava sulla guancia. Un altro carabiniere si precipitò verso di noi. «Cosa vuoi?» dissi. Non rispose. Stava pensando a come fare per prendermi. Portai il braccio indietro per sganciare la pistola. «Non sapete che non potete toccare gli ufficiali?» L'altro mi afferrò da dietro e mi tirò su il braccio fino a torcerlo nell'ascella. Mi girai col braccio e l'altro mi afferrò al collo. Gli tirai dei calci negli stinchi e col ginocchio sinistro lo colpii all'inguine. «Sparateli se resiste», udii dire da qualcuno. «Che cos'è questa storia?» cercai di gridare, ma non avevo una gran voce. Ora mi avevano portato sul ciglio della strada. «Sparateli, se resiste», disse un ufficiale. «Portatelo indietro». «Chi siete?» «Te ne accorgerai». «Chi siete?» «Polizia militare», disse un altro ufficiale. «Perché non mi avete chiesto di avvicinarmi invece di farmi prendere da questi aeroplani?» Non risposero. Non avevano da rispondere. Erano la polizia militare. «Portatelo laggiù con gli altri», disse il primo ufficiale. «Vedete? Parla un italiano con un accento. Come te, razza di...» dissi. «Portatelo laggiù con gli altri», disse il primo ufficiale. Mi portarono dietro alla fila degli ufficiali sotto la strada verso un gruppo di persone in un campo accanto alla riva del fiume. Mentre ci avvicinavamo, si udirono degli spari. Vidi i lampi dei fuochi e udii le detonazioni. Ci avvicinammo al gruppo. C'erano quattro ufficiali in piedi, l'uno vicino all'altro, di fronte a un uomo che aveva un carabiniere per parte. Un gruppo di uomini era lì in piedi, sorvegliato dai carabinieri. Altri quattro carabinieri erano in piedi, appoggiati ai moschetti, vicino agli ufficiali che interrogavano. Erano carabinieri con quei cappelli grandi. I due che mi tenevano mi cacciarono nel gruppo che aspettava di venire interrogato. Guardai quello che gli ufficiali stavano interrogando adesso. Era il piccolo tenente colonnello grigio e grasso che avevano preso nella colonna. Quelli che interrogavano avevano tutta l'efficienza, la freddezza e il controllo di sé degli italiani che sparano senza che nessuno spari a loro. «Che brigata?» glielo disse. «Reggimento?» glielo disse. «Perché non sei col tuo reggimento?» glielo disse. «Non lo sai che un ufficiale deve restare coi suoi uomini?» Lo sapeva. Fu tutto. Parlò un altro ufficiale. «Sei tu e la gente come te che hanno permesso ai barbari di calpestare il sacro suolo della patria. La prego di scusarmi», disse il tenente colonnello. «È a causa di tradimenti come il tuo che abbiamo perduto il frutto della vittoria». «Si è mai trovato in una ritirata?» chiese il colonnello. «L'Italia non dovrebbe mai ritirarsi». Eravamo lì, in piedi, nella pioggia, ad aspettare. Eravamo di fronte agli ufficiali e il prigioniero era davanti a noi, leggermente spostato da un lato. «Se intendete fucilarmi», disse il tenente colonnello, «per favore fucilatemi subito senza altre domande. È stupido fare domande». Si fece il segno della croce. Gli ufficiali parlarono tra loro. Uno scrisse qualcosa su un notes. «Abbandono di truppa. Condannato alla fucilazione». Due carabinieri condussero il tenente colonnello verso la riva del fiume. Camminava nella pioggia, vecchio, a capo scoperto, con un carabiniere per parte. Non vidi la fucilazione, ma udii gli spari. Stavano interrogando un altro. Anche questo ufficiale si era allontanato dalle sue truppe. Non gli permisero di dare una spiegazione. Quando lessero la sentenza sul notes, pianse, e quando lo fucilarono stavano interrogandone un altro. Facevano in modo di essere occupati a interrogare il prossimo mentre veniva fucilato quello che era stato interrogato prima. In questo modo era evidente che non potevano ripensarci. Non sapevo se aspettare l'interrogatorio o tentare subito la fuga. Era evidente che secondo loro ero un tedesco in uniforme italiana. Vedevo come lavoravano i loro cervelli, posto che avessero cervelli e che lavorassero. Erano tutti giovanotti e stavano tutti salvando la patria. Il secondo esercito andava ricostituito di là del tagliamento. Stavano giustiziando gli ufficiali dal grado di maggiore in su che si erano separati dalle loro truppe. Agivano pure in modo sommario con gli agitatori tedeschi in uniforme italiana. Avevano elmetti d'acciaio. Soltanto due di noi avevano l'elmetto. Qualche carabiniere l'aveva. Gli altri carabinieri avevano il cappello grande, la lucerna. Li chiamavano aeroplani. Eravamo in piedi nella pioggia e ci prendevano uno per interrogarci e fucilarci. Finora avevano fucilato tutti quelli che avevano interrogato. Quelli che interrogavano avevano quel bel disinteresse e quella devozione a una rigida giustizia caratteristica degli uomini che si trovano a contatto con la morte senza correre rischi. Stavano interrogando il colonnello di un reggimento di linea. Altri tre ufficiali erano stati aggiunti a noi. «Dov'era il tuo reggimento?» Guardai i carabinieri. Guardavano i nuovi venuti. Gli altri guardavano il colonnello. Mi chinai, mi feci largo fra due uomini e corsi a testa bassa verso il fiume. Inciampai sulla riva e caddi con un tonfo. L'acqua era molto fredda e rimasi sott'acqua finché potei. Mi sentivo trascinare dalla corrente e rimasi sott'acqua finché credetti di non riuscire mai più a venire a galla. Appena venni a galla, presi fiato e tornai sotto. Era facile restare sotto con tutti quei vestiti e gli scarponi. Quando venni a galla la seconda volta vidi un trave davanti a me e lo raggiunsi e lo afferrai con una mano. Tenni la testa al riparo e nemmeno guardai oltre il trave. Non volevo vedere la riva. Avevano sparato mentre correvo e sparato quando venni a galla la prima volta. Li udii quando ero quasi fuori dell'acqua. Ora non sparavano. Il trave dondolava nella corrente e lo tenni con una mano. Guardai la riva. Pareva che si allontanasse molto in fretta. C'era molto legno nel fiume. L'acqua era molto fredda. Passammo la vegetazione di un isolotto a fior d'acqua. Mi ressi al trave con tutte e due le mani e mi lasciai trascinare. La sponda era ormai scomparsa. Non si sa quanto tempo si resti in un fiume quando la corrente è veloce. Pare che sia molto, e magari molto poco. L'acqua era fredda e in piena e passavano molte cose che erano state strappate alle rive col salire dell'acqua. Ero fortunato ad avere un trave pesante a cui aggrapparmi e giacevo nell'acqua gelata col mento sul legno, tenendomi più comodamente che potevo con le due mani. Avevo paura che mi venissero i crampi e speravo di accostarmi alla sponda. Scendemmo il fiume in una lunga curva. Incominciava a essere abbastanza chiaro, così vedevo i cespugli lungo la riva. Davanti c'era un isolotto coperto di vegetazione e la corrente conduceva alla riva. Mi chiesi se togliermi gli scarponi e i vestiti e cercare di nuotare verso terra, ma decisi di non farlo. Non avevo mai dubitato di raggiungere la riva in un modo o nell'altro e mi sarei trovato male se vi fossi arrivato a piedi nudi. In un modo o nell'altro dovevo arrivare a Mestre. Guardavo la sponda avvicinarsi, poi allontanarsi, poi riavvicinarsi. Galleggiavamo più lentamente. Ora la riva era molto vicina. Vedevo i ramoscelli sui salici. Il trave dondolò lentamente finché la riva fu alle mie spalle e capii che eravamo in un gorgo. Girammo lentamente. Quando rividi la riva, ora molto vicina, cercai di tenere il trave con un braccio e nuotando con l'altro e con le gambe di spingerlo verso la riva, ma non lo feci minimamente avvicinare. Avevo paura di uscire dal gorgo e tenendo il trave con una mano tirai su i piedi finché furono contro il fianco del trave e lo spensi violentemente verso la riva. Vidi i cespugli, ma malgrado tutto il mio peso e la forza che mettevo nel nuotare, la corrente mi trascinava. Pensai allora che avrei anche potuto annegare per via degli scarponi, ma lottai nell'acqua e quando alzai lo sguardo, la riva mi veniva incontro e continuai a nuotare in un panico greve finché la raggiunsi. Mi aggrappai al ramo di un salice e non ebbi la forza di alzarmi, ma ora sapevo che non sarei annegato. Non mi era mai venuto in mente sul trave che avrei potuto annegare. Mi sentivo svuotato e avevo male al ventre e al torace per lo sforzo e mi reggevo ai rami e aspettai. Quando mi sentii meglio, feci forza sui rami del salice e mi riposai di nuovo con le braccia intorno agli arbusti, tenendomi stretto con le mani e ai rami. Poi strisciai fuori. Mi aprii la via fra i salici verso la riva. Era quasi l'alba e non si vedeva nessuno. Giacco i bocconi sulla riva ad ascoltare il fiume e la pioggia. Dopo un po' mi alzai e mi incamminai lungo la riva. Sapevo che non c'erano ponti sul fiume fino alla tisana. Pensai che forse ero di fronte a San Vito. Incominciai a pensare che cosa dovessi fare. Davanti a me c'era un fosso che finiva nel fiume. Mi avviai in quella direzione. Finora non avevo visto nessuno e sedetti accanto a qualche cespuglio lungo la riva del fosso e mi tolsi le scarpe e le vuotai. Mi tolsi la giubba, tolsi il portafogli coi documenti e il denaro tutto bagnato dalla tasca interna e poi strizzai la giubba. Mi tolsi i calzoni e strizzai anche quelli e poi la camicia e la biancheria. Mi battei e stropicciai e rivestii. Avevo perso il berretto. Prima di rimettermi la giubba strappai le stellette dalle maniche e le misi nella tasca interna col denaro. Il denaro era bagnato, ma in ordine. Lo contai. C'erano 3.000 lire e qualche spicciolo. I vestiti erano bagnati e attaccaticci e mi battei le braccia perché non mi si fermasse la circolazione. Avevo la biancheria di lana e pensavo che muovendomi non avrei preso freddo. Mi avevano tolto la pistola sulla strada e nascosi la fondina sotto la giubba. Non avevo mantellina e faceva freddo nella pioggia. Mi avviai sulla riva del canale. Era l'alba e la campagna era bagnata piatta e lugubre. I campi erano nudi e bagnati. Molto lontano vidi un campanile che si alzava sulla pianura. Giunsi sulla strada e vidi delle truppe che scendevano la strada. Zoppicai lungo il ciglio della strada e mi passarono accanto senza accorgersi di me. Era un distaccamento di mitragliatrici diretto al fiume. Proseguii lungo quella strada. Quel giorno attraversai la pianura veneta. È una campagna piatta e monotona e sotto la pioggia è ancora più piana. Verso il mare vi sono paludi salate e pochissime strade. Le strade vanno tutte al mare lungo le bocche del fiume e per attraversare la regione bisogna seguire i sentieri lungo i canali. Procedevo nella campagna da nord a sud e avevo attraversato 2 linee ferroviarie e molte strade e finalmente giunsi alla fine di un sentiero in una linea ferroviaria che costeggiava una palude. Era la linea principale da Venezia a Trieste, con una solida scarpata alta, un solido letto stradale e un doppio binario. Un po' più in là, sul binario, c'era un passaggio a livello e vedevo i soldati di sentinella. Più in su, sulla linea, c'era un ponte su un fiume che finiva nella palude. Vidi una sentinella anche al ponte. Attraversando il ponte verso nord, avevo visto un treno passare su questa linea, visibile da lontano sulla pianura, e pensai che potesse arrivare un treno da Porto Gruaro. Tenni d'occhio le sentinelle e mi distesi sulla scarpata in modo da vedere le due direzioni delle rotaie. La sentinella sul ponte procedeva lungo la linea verso il punto dove ero disteso. Poi si voltava e ritornava al ponte. Ero disteso e avevo fame e aspettavo un treno. Quello che avevo visto era così lungo che la locomotiva procedeva molto lentamente ed ero sicuro che sarei riuscito a salire, quando avevo quasi perduto la speranza che ne arrivasse uno. Vidi venire un treno. La locomotiva, avvicinandosi sul rettilineo, ingrandì lentamente. Guardai la sentinella sul ponte. Camminava sul parapetto vicino del ponte, ma dall'altra parte del binario. Non avrebbe potuto vedere quando il treno passava. Osservai la locomotiva avvicinarsi. Faceva molta fatica. Vidi che vi erano molti vagoni. Sapevo che dovevano esserci delle sentinelle sul treno e cercavo di vedere dove fossero, ma tenendomi nascosto non mi riusciva. La locomotiva giunse al punto dove ero disteso. Quando mi fu di fronte, sbuffante e arrancante perfino in pianura, e vidi passare il macchinista, mi alzai e mi avvicinai ai vagoni che passavano. Se le sentinelle mi osservavano avrei destato meno sospetto, stando in piedi accanto alle rotaie. Passarono parecchi carri merci chiusi. Poi vidi un vagone basso, aperto, di quelli che chiamano gondole, coperto di teli. Rimasi in piedi finché fu quasi passato. Poi feci un balzo e mi afferrai alle sbarre e mi issai. Strisciai tra la gondola e il riparo del carro merci che seguiva. Mi pareva che non mi avesse visto nessuno. Mi tenevo aggrappato alle sbarre e accoccolato sui ganci. Eravamo quasi di fronte al ponte. Ricordai la sentinella. Mentre passavo mi guardò. Era un ragazzo e l'elmetto era troppo grande per la sua testa. Lo fissai con disprezzo e lui guardò da un'altra parte. Pensò che fossi di servizio sul treno. Eravamo passati. Lo vidi, sempre con l'aria di trovarsi a disagio, guardare gli altri vagoni che passavano e mi curvai per vedere come fossero fissati i teli. Avevano delle asole ed erano fissati ai bordi con una corda. Presi il temperino e tagliai la corda e infilai dentro un braccio. Vi erano masse dure sotto la tela indurita dalla pioggia. Guardai in alto e in avanti. C'era una guardia sul carro merci, ma guardavo in avanti. Abbandonai la presa delle sbarre e mi gettai sotto il telo. Battei la fronte sopra qualcosa che mi diede una botta violenta e mi sentii il sangue in faccia, ma strisciai avanti e mi distesi i bocconi. Poi mi voltai e legai il telo. Ero dentro, sotto il telo coi cannoni. Avevano un odore pulito di olio e di grasso. Restavo disteso ad ascoltare la pioggia sul telo e il ticchettio del vagone sulle rotaie. Entrava un po' di luce e così sdraiato guardai i cannoni. Avevano addosso i loro rivestimenti di tela. Pensai che dovevano essere stati mandati avanti dalla terza armata. La fronte mi si era gonfiata e arrestai il sangue rimanendo sdraiato immobile e lasciandolo coagulare. Poi tolsi il sangue asciutto tutto intorno alla ferita. Non era niente. Non avevo fazzoletto, ma tastando con le dita mi levai il sangue coagulato con l'acqua della pioggia che gocciolava dai teli e l'asciugai con la manica della giubba. Non volevo essere vistoso. Sapevo che dovevo scendere prima di arrivare a Mestre, perché si sarebbero occupati di quei cannoni. Non avevano cannoni da perdere o da dimenticare. Avevo una fame spaventosa. Disteso sul fondo del vagone, accanto ai cannoni sotto i teli, ero bagnato, gelato e molto affamato. Alla fine mi girai e rimasi bocconi sul ventre con la testa sulle braccia. Il ginocchio era rigido, ma si era comportato molto bene. Valentini aveva fatto un bel lavoro. Avevo fatto mezza ritirata a piedi e attraversato un tratto del tagliamento a nuoto col suo ginocchio. Era decisamente il suo ginocchio. L'altro ginocchio era mio. I dottori vi fanno qualcosa e così non è più il vostro corpo. La testa era mia e anche l'interno della pancia. C'era una gran fame lì dentro. Sentivo tutto girarsi su se stesso. La testa era mia, ma non da usare, non per pensare, soltanto per ricordare e non ricordare troppo. Potevo ricordare Catherine, ma sapevo che sarei impazzito se avessi pensato a lei prima di essere sicuro di rivederla. Così non pensai a lei, soltanto un poco. Soltanto a lei mentre il vagone andava lentamente, clicchettando, e un po' di luce entrava attraverso i teli e io ero disteso con Catherine sul fondo del vagone. Era duro come il fondo del vagone stare distesi senza pensieri, soltanto con sensazioni, dopo essere stato via tanto tempo, coi vestiti bagnati e il fondo che si muoveva pochissimo e solo dentro, abbandonato con gli abiti bagnati e il fondo duro per moglie. Non si poteva amare il fondo di un vagone, né i cannoni con le coperture di tela e l'odore del metallo coperto di vasellina o un telo attraverso cui filtrava la pioggia, anche se è molto bello stare sotto i teli e divertente coi cannoni. Ma si amava qualcun altro, che ora non si poteva neanche fingere che ci fosse, e ora si vedeva con grande chiarezza e freddezza, non tanto con freddezza, quanto con chiarezza e vuoto. Si vedeva il vuoto distesi lì dentro, dopo essere stati presenti nel momento in cui un esercito andava indietro e un altro andava avanti. Si erano perse le macchine e gli uomini come un caporeparto perde la merce del suo reparto in un incendio. Però non c'era l'assicurazione. Ora se ne era fuori. Non c'erano più obblighi. Se si sparasse ai caporeparti dopo un incendio di un reparto, perché parlavano con un accento che avevano sempre avuto, non ci si potrebbe certo aspettare che tornassero quando il negozio riaprisse per riprendere gli affari. Cercherebbero un altro impiego, se ci fosse un altro impiego, e la polizia non li acchiappasse. La collera era stata lavata nel fiume coi miei impegni. Questi però erano cessati quando il carabiniere mi aveva messo le mani sul colletto. Mi sarebbe piaciuto togliermi l'uniforme, per quanto non mi importasse granché delle forme esteriori. Mi ero tolto le stellette, ma soltanto per comodità. Non era un punto d'onore. Non era contro di esse. Ne avevo abbastanza. Auguravo loro ogni bene. C'erano dei buoni e dei coraggiosi e dei calmi e degli intelligenti. E loro le meritavano. Ma non era più affare mio e desideravo che questo maledetto treno arrivasse a Mestre per poter mangiare e smettere di pensare. Dovrei smettere. Piani avrebbe detto che mi avevano fucilato. Frugavano le tasche e prendevano i documenti della gente prima di fucilarla. Non avevano i miei documenti. Potevano dire che ero annegato. Mi chiesi che cosa avrebbero scritto negli Stati Uniti. Morto in seguito a ferite e altre scuse. Cristo santo, che fame. Mi chiesi che fine avesse fatto il cappellano della mensa. Rinaldi. Probabilmente era Pordenone, se non si erano ritirati ancora di più. Beh, non l'avrei mai più vista ormai, non avrei più visto nessuno di loro ormai. Quella vita era finita. Non credevo che avesse la sifilide, comunque dicono che non è una malattia seria, se si prende per tempo. Ma lui era preoccupato. Lo sarei anch'io se l'avessi, chiunque lo sarebbe. Non ero fatto per pensare, ero fatto per mangiare. Dio mio, sì, mangiare e bere e andare a letto con Catherine. Magari stasera, no, questo era impossibile. Ma domani sera, è un buon pasto. Le lenzuole e non andare mai più via, se non insieme. Probabilmente dover andare maledettamente in fretta. Sarebbe venuta, sapevo che sarebbe venuta. Quando si partiva? A questo bisognava pensare. Si faceva buio. Stavo disteso a pensare dove potevamo andare. C'erano molti posti.